Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, noi naturalmente ripartiamo da Kiev. Il Parlamento ucraino ha abrogato le contestatissime leggi antiprotesta approvate il 16 gennaio, quelle che tra l'altro hanno portato all'inasprimento della crisi politica, agli scontri degli ultimi giorni tra polizia e manifestanti che, ricordo, hanno causato almeno 6 morti. Intanto prosegue la missione europea, Stefan Füle, quindi commissario all'allargamento, dice: i miei colloqui con i partner ucraini sono in corso, è fondamentale che la sessione straordinaria della Rada al Parlamento inizia a spianare la strada da seguire per un processo politico inclusivo che porti ad una via d'uscita dalla crisi, e come vedete almeno i segnali vanno in questa direzione. Intanto nel pomeriggio Füle viene raggiunto a Kiev dalla responsabile della diplomazia europea Catherine Ashton. Ma sentiamo come invece si preparano i lavori, quali i temi, l'Ucraina naturalmente, ma non solo, nell'incontro del pomeriggio a Bruxelles per il bilaterale Unione Europea-Russia. Sarà un summit informale, senza una precisa agenda, dal quale non ci si aspettano prese di posizione ufficiali, ma non per questo sarà meno importante. Ad esempio per la crisi ucraina, su cui Russia e Unione Europea hanno sguardi e aspettative ben diverse. Kiev è contesa, per così dire, tra due unioni, quella europea e quella ancora in embrione, eurasiatica, lanciata dal presidente kazako Nazarbayev 20 anni fa e diventata un cavallo di battaglia del presidente russo Putin, che entro il 2015 vorrebbe formalmente fondarla, trasformando così l'unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan in una unione delle ex repubbliche sovietiche sul modello di quella europea. Prospettiva che non entusiasma Bruxelles, che già ora rimprovera la Russia di praticare politiche protezionistiche che danneggiano le imprese europee in barba alle regole del WTO. E poi c'è la sempre aperta questione energia. Il pacchetto Clima e Energia 2030, appena presentato, non piace agli ambientalisti, ma nemmeno alla Russia, soprattutto per le ricadute sul progetto del gasdotto South Stream. Contiene regole discriminatorie delle aziende russe, ha commentato uno dei consiglieri di Putin, Yuri Ushakov, che nel briefing di ieri ha anche ammesso che il potenziale della collaborazione tra Russia ed Europa è lontano dall'essere ben sfruttato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente vi aggiorneremo su questo delicatissimo dossier. Ora parliamo di DataGate. Secondo gli ultimi studi, nel 2011 il valore dei dati relativi ai cittadini dell'Unione Europea ammontava a 315 miliardi di euro e nel 2020 potrebbe raggiungere la cifra di quasi 1000 miliardi di euro. Questo è il valore che sta anche dietro lo scandalo del DataGate che appunto abbiamo seguito recentemente. Ma in tutto questo i cittadini europei e non solo non continueranno a rivelare i propri dati se non si fideranno delle società che li gestiscono. Quindi perdere la loro fiducia significa anche perdere guadagni. Secondo le stime e le rivelazioni dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana causeranno entro il 2016 una riduzione di 180 miliardi di dollari delle vendite americane nel settore delle tecnologie. Su questo dossier abbiamo sentito Vivian Reding, che possiamo sentire in sottofondo, vice premier della Commissione europea responsabile della giustizia. Ecco, Vivian Reding ci ha spiegato poco fa che il progetto appunto su cui lavora la Commissione punta innanzitutto a integrare il lavoro del pubblico e del privato. Insomma, troppe leaks, troppe falle si sono aperte recentemente che hanno messo in discussione, in crisi di fatto, quello che è il potenziale economico del mercato digitale, di un sistema economico, quello dell'Unione Europea, che punta sui servizi e sul mercato digitale. Vivian Reding dunque ci ha spiegato anche che conta sulla presidenza italiana nel secondo semestre 2014 per portare avanti la trattativa tra gli Stati. Infatti sono molti ad avere posizioni diciamo molto più difensive rispetto all'Italia stessa e alla Commissione europea, che invece cercherà appunto entro il 2014 di arrivare a concludere un accordo ampio e definitivo, per quanto questo possa esserlo appunto, sul trattamento dei dati personali. E con questo è tutto, Europa 24 torna domani, adesso la linea allo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.